non ho sputato in aula, non ho sputato in aula. Stavo parlando, no, mi sono, no, no, no, aggredito, gli stavo dicendo quello che pensavo, non l'ho aggredito, ero tre banchi più sotto, non l'ho aggredito, ho detto quello che pensavo in quel momento, che era un traditore, va bene, è stato eletto con i voti dell'Udeur, con i voti della Campania, non della Sicilia. Apprezzamenti personali, in che senso, mi scusi, offensivi? Non mi ricordo, ma non penso di averlo trattato bene per quello che ha fatto, non penso di averlo offeso, assolutamente, ho detto soltanto che era un traditore del nostro partito.